vado e va, poi grandi se c'è l'arm de ton visage. Ore 11.04, torniamo in voce dall'altro capo del telefono, un compagno del coordinamento romano Acqua Pubblica. Pronto, ci senti? Sì, sì, sento benissimo, ci sono. E insomma, abbiamo pensato così di provare a rimettere insieme un po' di fila, partendo appunto dal comunicato che vi abbiamo letto insomma un po' di tempo fa, che è appunto firmato dal coordinamento romano Acqua Pubblica su il piano casa diventa legge, chi si oppone finisce ai domiciliari, rispetto a quanto è successo in questi giorni dentro Montecitorio e poi fuori da Montecitorio, anche insomma dopo la manifestazione di sabato scorso. E insomma, per così, intanto, se vuoi, vogliamo ripartire da questo comunicato e dalle motivazioni. Sì, diciamo che il comunicato nasce ovviamente per esprimere solidarietà a Luca e a Paolo rispetto ai nuovi provvedimenti restrittivi a cui sono stati sottoposti, però seppur brevemente abbiamo provato un po' a così tracciare un po' un ragionamento su quello che ha significato il piano casa, l'approvazione del piano casa e anche appunto questi provvedimenti a cui sono stati sottoposti, che sono strettamente legati, perché da una parte c'è stata una mobilitazione sociale che ha visto in campo appunto i movimenti per il diritto all'abitare da diversi mesi, in generale sulla questione abitativa e poi più nel particolare ultimamente sul decreto Lupi, e dall'altra il fatto che vuoi per la scadenza elettorale diciamo ravvicinata, vuoi perché appunto c'è in atto una criminalizzazione di tutti i movimenti sociali, si è provato ridimensionare tutta la mobilitazione e l'attivazione su questi temi come una questione, un problema esclusivamente di ordine pubblico. Ora il fatto è che tutte invece le manifestazioni, i cortei che ci sono stati, i presidi e quant'altro parlano assolutamente di qualcos'altro, cioè il fatto che si rivendichi il diritto alla casa e contemporaneamente il diritto ad aver soddisfatti propri bisogni essenziali, cioè quelli che il decreto Lupi vuole vietare, ovvero il distacco delle varie utenze, che sia l'acqua, che sia l'energia elettrica, che sia anche il diritto sostanzialmente alla cittadinanza, perché verrebbe tolta anche la residenza. Queste sono rivendicazioni che sono assolutamente trasversali, questo noi abbiamo provato a dire, e quindi ci sembra opportuno che di fronte a quanto avvenuto appunto l'altro giorno la risposta sia il più collettiva, unitaria possibile, perché appunto quello che si sta mettendo in gioco e si sta cercando di negare appunto sono diritti fondamentali, e che quindi non riguardano solo i movimenti per la casa, ma anche per esempio noi come movimento per l'acqua, ma anche tante altre realtà che sono scese in piazza il 17 in forma appunto assolutamente diversificata, variegata, con ognuno le proprie rivendicazioni, ma avendo appunto così un minimo di obiettivi comuni che riguardavano appunto la difesa dei beni comuni e no alle privatizzazioni. Questo è un po' il ragionamento che noi abbiamo cercato di fare e che ovviamente vorremmo provare a proporre anche a tutte le realtà, a partire da quelle romane, ma anche a quelle nazionali, per dare un seguito anche alla tappa di un percorso che è quello che c'è stato sabato scorso con la manifestazione. Certo, senti, questa mattina insomma il tempo che avrai visto negli ultimi mesi, come dire, un'attenzione quasi ossessiva direi ai movimenti di lotta per la casa in particolare, ai movimenti in generale, ovviamente un'attenzione non certo benevola e soprattutto, come dire, che ha i toni più spesso giudiziari o giustizialisti che non politici, insomma questa mattina dedica nuovamente molto spazio a tutto questo e intervista intervista a Marino, in un'intervista a Tutta Pagina, e niente, volevo sottolinearti alcune affermazioni di Marino per sentire la tua. Innanzitutto si parla del Comitato di Ordine e Sicurezza. Marino dice che i temi più urgenti che lui ha proposto a Alfano come temi urgenti per la sicurezza a Roma sarebbero, secondo lui, l'abusivismo commerciale, quindi insomma la vendita per strada, la prostituzione, la movida violenta e lo spaccio di sostanze stupefacenti. E poi finisce questo elenco però dicendo che recentemente è stata al Quarticciolo e due bambini di 8 anni lo avrebbero portato a vedere delle case occupate dove, secondo loro, si svolgono attività di spaccio e prostituzione. Insomma, ora, a parte usare dei bambini di 8 anni come informatori, ma è evidente che si vuole dare un'indicazione, perché non credo l'abbia detta a caso Marino questo aneddoto, non so. No, se... in questo modo, secondo me, l'operazione che si tenta di fare è di mettere sullo stesso piano appunto la movida violenta o più o meno violenta romana con chi invece appunto è attivo nelle strade diciamo per rivendicare i propri diritti, che mi sembra un qualcosa di assolutamente assurdo e allucinante, e anche pericoloso. È evidente che Marino, diciamo, in tanti l'hanno definito un dead man walking, nel senso che è già stato scaricato, diciamo, dal governo, dalla parte renziana, commissariato sostanzialmente con il decreto Salva Roma, e adesso, diciamo, all'ultimo sta cercando di riaccreditarsi verso quella parte del PD che lo vuole scaricare dopo le elezioni politiche, e quindi sta, a quanto si vede, si percepisce dalle dichiarazioni che sta facendo negli ultimi giorni, ma anche dai provvedimenti, perché va ricordato che l'altro ieri ha emesso un'ordinanza urgente di sgombero per il casale Pachamama, che quindi è nella stessa direzione di altre dichiarazioni rispetto ai movimenti del diritto all'abitare o tutta la questione ordine pubblico, sicurezza, corte dei viventi in centro. Beh, si sta cercando di riaccreditare per rimanere, diciamo, sulla sua poltrona, e quindi sta virando decisamente a destra nelle sue politiche, o quantomeno nelle dichiarazioni. È evidente poi il Tempo sta diventando un megafono, diciamo, di tutti quelli che vogliono appunto vogliono dipingere i movimenti sociali come sostanzialmente una banda di criminali, perché quando li si accomuna, diciamo, al traffico di droga, per l'opinione pubblica si sta cercando di fare un'operazione di criminalizzazione, ma non perché, diciamo, c'è un modo di stare in piazza che è determinato e deciso, ma perché si accomuna la criminalità più banale, e queste sono operazioni, diciamo, molto molto molto gravi, perché appunto sostanzialmente si dice che chi si oppone a questo modello e al modello soprattutto delle larghe intese non ha diritto di parola, ma anzi deve essere così messo in un angolo e represso. Sì, fra l'altro, insomma, anche su questo tema della sicurezza sembra ci sia come questa svolta di Marino, no? Che stavi dicendo tu. Insomma, ricordo un po' di tempo fa quando alcune testate giornalistiche romane calcavano la mano su quello che chiamano degrado, eccetera, e chiedevano ordinanze amministrative, la giunta, per voce del vice sindaco, rispose che, insomma, l'ordine non sarebbe stato gestito così. Ora non si parla di Marino, non parla di ordinanze amministrative, ma parla, per esempio, questa mattina di telecamere, di invitare, insomma, il governo a investire in un sistema di videosorveglianza che secondo lui farebbe da deterrente, e porta a modello addirittura Londra con il suo milione di telecamere. Ma infatti la questione è questa, cioè non avendo, diciamo, un progetto rispetto alla città, non avendo una prospettiva, non facendo un ragionamento di medio-lungo termine rispetto alla città, è evidente che poi diciamo, le soluzioni diventano esclusivamente quelle appunto repressive, securitarie e legalitarie, perché se non si governano alcuni processi e si lascia in mano appunto al libero mercato e alla commercializzazione anche di alcuni luoghi, come è avvenuto in tanti quartieri di Roma. Poi la risposta che si arriva a dare appunto è solo quella securitaria e legalitaria, per cui o le volanti di polizia nelle piazze di alcuni quartieri, o le telecamere, o le retate, o quant'altro. Il problema secondo me è assolutamente a monte. Abbiamo visto diverse parti di Roma che sono, diciamo, assolutamente degenerate nella nella proliferazione di esercizi commerciali assolutamente a scopo di lucro, esclusivamente a scopo di lucro, senza nessun scopo e fine culturale, ed è evidente che si generano poi dei fenomeni difficilmente controllabili. Però qui diciamo è tutto appunto sul fatto che questa amministrazione, come anche quelle precedenti, non ha mai avuto un'idea, diciamo, di sviluppo del territorio che sia compatibile anche con quelle persone che quel territorio, che quei quartieri lo vivono, ma solo esclusivamente, diciamo, in funzione del profitto del privato, che sia il piccolo esercente o il grande costruttore speculatore romano. Senti, l'ultima dichiarazione, insomma, che prendo da questa intervista di Marino, che ha rilasciato questa mattina al Tempo, appunto torna a parlare delle manifestazioni di piazza e dice: occorrono misure più drastiche per consentire a chiunque di protestare giustamente e liberamente, ma senza violenza. Chi si infiltra nei cortei con cappucci o caschi va immediatamente allontanato, o se commesso reato tratto in arresto. Quindi, insomma, sostanzialmente si accoda Alfano dicendo, insomma, una serie di banalità, tipo che chi fa reati va arrestato eccetera, ma anche dicendo, insomma, volendo fare un po' la voce grossa. Sì, ma infatti questo sta nell'allineamento rispetto appunto alle politiche e alla direzione che sta prendendo il governo da questo punto di vista, cioè sostanzialmente poi alla campagna elettorale che sta portando avanti Alfano, perché tutta questa vicenda del piano sicurezza per Roma, diciamo, è un qualcosa che ha un chiaro obiettivo e finalità elettorale, e Marino ci sta entrando con tutte le scarpe e sta seguendo, diciamo, questa deriva, perché è una deriva appunto legalitaria che diciamo ha assolutamente poco senso, ma è assolutamente da ribaltare e contrastare, perché non si può, sicuramente non si possono ridimensionare gli spazi di agibilità, gli spazi democratici di questa città, e va comunque garantito il diritto a manifestare. Ieri si leggeva anche sui giornali che questo fantomatico appunto piano per la sicurezza prevederebbe sostanzialmente come forma di manifestazione non più il corteo ma il presidio. Cioè, non vorrei che l'idea di Alfano e quindi anche di Marino sia quello di costringerci, diciamo, alla formula anglosassone statunitense di stare su un marciapiede con i cartelli in mano a fare, diciamo, il giretto. Cioè, le manifestazioni, le mobilitazioni devono mantenere la forma anche del corteo, con un inizio e una fine, e soprattutto che possano svolgersi in quei luoghi che simbolicamente, diciamo, rappresentano ciò che si vuole appunto contrastare con quella manifestazione. Noi abbiamo chiesto rispetto al 17 di poter passare sotto Cassa Depositi e Prestiti del Ministero delle Finanze, ci è stato negato dopo una estenuante trattativa. Ecco, questo non è ammissibile che si parli anche di arresti preventivi, ma cioè si vocifera di una sorta di DASPO per le manifestazioni. Cioè, chi è identificato come arbitrariamente come violento potrebbe addirittura avere provvedimenti di questo tipo, che risultano assolutamente inaccettabili. Sì, come continua a essere inaccettabile, appunto, come dicevi tu, che non si possa decidere di manifestare dove si ritiene, come dire, efficace, significativo andare a manifestare, insomma, anche per una manifestazione come quella di sabato scorso, insomma, uno schieramento di forze dell'ordine assolutamente inutile per garantire che non ci si avvicinasse al Senato e alla Camera dei Deputati, poi alla fine, cioè, come cioè non si capisce nemmeno la concezione proprio di democrazia, dove sarebbe se non si può portare le manifestazioni sotto il Parlamento. Certo, no, ma infatti è questo che appunto rischia di restringersi sempre più lo spazio di agibilità dei movimenti sociali, e su questo credo che vada fatta anche una riflessione rispetto alle mobilitazioni che si mettono e si metteranno in campo nelle prossime settimane, nel prossimo futuro, perché anche da parte nostra, diciamo, dei movimenti sociali va fatto un ragionamento per non cadere, diciamo, rischiare di non cadere nella trappola, cioè azioni e mobilitazioni, attivazione efficace sull'obiettivo determinata e decisa, radicale, però è evidente che, diciamo, c'è anche la necessità di un così di fare anche un salto di qualità e un aggiornamento anche delle nostre forme di mobilitazioni rispetto alla creatività, rispetto all'innovazione, altrimenti, diciamo, si rischia di stare a questo gioco ma soprattutto di essere, diciamo, inefficace rispetto a quello che si va a fare. Sì, e poi e di essere anche molto compatti, appunto, nella solidarietà, in questo caso con Luca e Paolo, ma con chiunque, insomma, caschi sotto le mannaie della repressione, perché vediamo, fra l'altro, oltre a tutto il resto, insomma, l'esempio della lotta no TAV, che in questo è molto chiara, e sentivamo, insomma, si è aperto stamattina il processo a Chiara, Mattia, Claudia e Niccolò, e abbiamo sentito un compagno dal presidio, un presidio che è, insomma, imponente, anche come dire, che esprime, oltre che determinazione, anche, insomma, la fiducia di chi sta portando avanti un percorso che sembra chiaro, con dei risultati importanti di coinvolgimento. Quindi, insomma, la chiarezza no TAV rispetto a non farsi dividere tra buoni e cattivi ci è, in qualche modo, ci dà la via su questo. Assolutamente, credo che questa sia assolutamente la strada, e quindi il cercare, appunto, anche di ragionare in comune e collettivamente rispetto alle mobilitazioni future, in modo da non cadere assolutamente in questa trappola che stanno tendendo dal governo al ministro degli interni e al sindaco di Roma. Bene, non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no noi ti ringraziamo per questo intervento. Non appunto esprimere ancora la vicinanza e la solidarietà a Luca e a Paolo, e arrivederci presto in piazza. Grazie, ciao. Grazie a voi, ciao.